grazie. Ora sessione di frequenza, sessione canale, per un QRSAP, grazie. Ora per un controllo sul canale, grazie. C'è qualcuno? Chi è che vuole sto controllo? Un po' di scopri. Lì, chiunque sia, voi non devo spaccarmi le orecchie. Scusa, ti ho risposto con... Ma però, ti qualifichi? Leo, sono su boia. Ti conchi. No, ma è possibile che una volta che uno entra nella mezz'estate, dopo un po' di tempo, chiede un QRK e entrano i Naigoni? Guardi, Naigone è lì, ti qualifichi. Comunque il controllo è 9,60, se gli può interessare. 9,60, porca puttana, allora sta funzionando male questa roba. Cazzo, se mi sta uscendo fuori lo smitter, levo ora. Aspetta, aspetti, ma mi calo le mutande a Bash e... Se mi può controllare un attimo le emorroide, mi sta arrivando così alto. Metto i canti, ma quelli del canale, cazzo, sono finiti, cosa, non mi accorgo sono. Tutti morti e non se ne sono accorti. Adesso sto usando 2 watt, poco fa ho risposto con l'altro, perché l'antenna era sull'altro, quando ti ho sentito. E chi è questo? Infatti manco riconosciuto ti avevo. Ma dove? 45 metri. Ma ascolta. Perché l'altro è 45 metri? Ascolti, faccia da bravo. No, dopo facciamo le prove, che sto adattando un cazzo di trasmette, c'è una ruggine tipo una roba, tipo una 500 degli anni 50, ma la ruggine funziona ancora, con roba lontana. E io ce l'avevo, ce l'aveva 3 mande quello che avevo io. Bello quello lì, No, io sono quello della CTE, in effetti c'è il posto per mettere i quarti, farlo vedere tre banda. Adesso capirai perché io sono sempre lì, 45 metri a rompere il codone a fare il piratone. Non mi faccia ridere. Radio Occidente Nefa. Vabbè, ma comunque non c'è... documento e libretto, grazie. Patente e libretto. Sì, ma non ho capito ancora, non ho capito chi sei, mi presento, sono Osvaldo, quello che sta dietro lì a fianco di fronte più o meno, anche non proprio di fronte, in basso più in alto e a destra a sinistra. Ehi, ho capito, io sono Giorgione. Giorgione? Nasu. Nel reclume che vuoi. No, Giorgione, no, dai. Ma io cucino meglio di Giorgione. Vabbè, ascolti, chiunque sia lì che si è qualificato, ma comunque qualificato è Giorgione, ma non è Giorgione, te lo conosco, Giorgione, e non è, e non si esprime come Giorgione. Si faccia da parte, perché io sto facendo una richiesta di QRK da lontano, dove sono, più o meno sono considerati Urbia, circa. C'è qualcuno qua in frequenza che mi ascolta? Cambio? Ti sono tornato a fare le pugnette. No, si intendi. Non si intende. Vabbè, c'è il Batman che sta sparando male qua. Mi intendi, mi intendi? E mi sa che qualcuno gli sta, sta bloccando anche il televisore. Beh, molto probabile. Ma no, anche no. Anche no. E perché sei a bloccare? Non vedo. Ho già provato altre volte che sono cazzo. Aspetta di altro ancora. Se riesco ad arrivare a 300, aspetta. Ti morti, che se la piglia con me, che dice che sono io. Cosa metti tu? Io non metto nuda, ma chi tu dici che sono io? E tu dici che sono io? Così come viene a rompere il cazzo a me, mi presento via lo bloccato. E facciamo così. E paga. Dito che l'avvocato Sergio Carponi, famiglia con questo, chiama un cazzo e ti ridi tu. Studiarlo. Cosa c'è qui? Anche il cane si è attratto. Cosa c'è il cagnolino? Curti! Aspetta, aspetta, che faccio il più a lui. Non ti consiglio, sta scaldando una sta roba. Ma con carico fittizio sì o col di polo? Polo subito di essere, come sempre, il trattamento cazzo di essere. Di polo fuori dal bascone, 7.000 di cazzo, bello. Però non c'è nessuno, sono, questo è un canale di morti e non se ne sono accorti ancora di essere morti, non che li ceduti. Ma può essere, non esiste che si possa puttane. Come? Ma quante probabilità ci possono essere da 1 a 10 che sono tutti quanti a puttane? 10. Cioè sono tutte a prostitute. E allora, invece di entrare qua, entra un'altra roba, quelli. Senza specificare. Io non specifico mai, non faccio né nomi né cognomi. La smettete di filare l'antennino, che poi mi prendete la malattia, porca puttana. O poi ti posso 44, tanto funziona bene. Ma perché fanno così schifo? Ma ne so io. Il 140 già è una cosa per noi, 44. Cioè, trasmette il meglio. Ma è possibile, no? Come si spiega? Si spiega che sono di scarsa qualità. Non si possono paragonare a un ICOM oppure a uno Iaesu, capito? Ho capito, scarsa qualità, ma forse... Ah, vabbè, dai, in effetti è una roba commerciale. Ti ricordi che il 140 è il classico dedicato ai CB, figura di tu. E come c'è il copio di CB? Il 140 è la sua evoluzione, il 60. Ehi, il classico baracchino a sintonia continua. Da bombardone e QRM a palla. Non si riesce a fare un qualcosa di docente. Infatti il 140 è proprio così. Che fischia? Pensi che volevo lusciare il cantante di coglione, me. Si è percepito il messaggio. Purtroppo si divertono così. Cosa vuoi ti dico? Mettono la portante o fischiano. Cazzo, quando li chiami manco ti rispondono. Ma... Oh, vabbè. Io il messaggio l'ho mandato. Ancora, ma si è percepito, forse non sono sentito in radio. Ma non so se ti ha sentito, ma gli sei uscito del radio. Vabbè, lo ripeto, quello che sto fischiando, dici se mi puoi bruciare una zanca di guglione. Bravo, complimenti, hai vinto 5 punti. Sì, ma sono stato di guglione, Bruce. Cazzo che mongolo è. E l'ho detto che qui sono un po' così. Cosa vuoi ti dica? Io non so come classificarli certa gente, dai. No, no, aspetta che sto proponendo. Uovo, cos'è? Non hai preso le pasticche? Oh! Fischio! Cos'è? Le pasticche non le hai prese? Che cazzo fischi? Ah, tu lascia bruciare del rigudone, vai, aspetta, aspetta. Mi abbassa il mutano un attimo. Continua a fischiare che sto volendo. Cazzo, ma si rende conto che si rende pubblicamente fa la figura del coglione, non se ne rende conto, non se ne rende conto evidentemente. E non sa che sappiamo chi è pure. Sì, ma a prescindere da quello, chiunque sia. Se insomma, con la direttiva vogliamo soddisfare. Ma porca puttana. Oh fischio! Aio, bruciami il guglione, dai, che ce l'abbiamo il tempo, tanto è sabato, sta piovendo. La sentite questo mongoloide? Sì, fuori le conche. Porca puttana. Vedi tu il cittadino che ha fatto danni, a quanto vedo. Oh signor. Ma io. Gira, mi rullo un po' di quel tabacco là. faccia di quello che fischia e me la fumo pure. No, aspetta, quello che mi hanno dato un po' di pezzi di cocaina di quella buona. Allora ce la sniffiamo. Sì, dal culo direttamente. E qua. Aspetta. Io invece stamattina sono riuscito a trovare il cazzo di negozio delle, di lo spacciatore di cose, di appoggino. Ho preso la cosa, la cocaina 20 mg e soprattutto l'aroma di quello che avevi tu, porca puttana, me l'ho miscelato, porca, ma molto meglio delle sigarette. Scusami, Guglione, cazzo. Ma guarda il grande fratello lì, che cazzo stai a consumare corrente? Secondo me questo è anche finucchio, boh. Vedi, lo dicevo io che era finucchio. Egregio, adesso mette bancata, ci sta mettendo la portata, eh? O quel reme. Sto chiamando con quello dell'acqua, mi. Aspetta, succhia molto. Succhia andiamo. Succhia andiamo. Chi ci sarà pure della portata? E beh, la faccia in culo, si era buono il burro. Ascolti, dei cerchi di modellare termini. No, che io sono maleducato. Rispondi di là, è grigio. Come è grigio? Di là. Eia! Dammi la frequenza! Le vetrine non mi senti di là! Ascolti, specifica la frequenza, no? Non dove? Perché? Quante si vede figo a te, parlando? Ma ci sono anche due. Ma proprio 45-45, ma dove però? Lui Zanca. Aspetta. Noi mi leggiamo il vacone. Poi grigio. A te, c'è Giulio. Giulio. Diglielo ma c'è anche da parlare bene però, se cominci a cazzeggiare lascia perdere, allora avanti Natali. Il mio vicino è che sta usando un pezzo di filo. Che cazzo è? Ma che Adriano? Sì, che sta usando un pezzo di filo tu. È un bel basso, comunque. Avanti Adriano. Ciao Torino, sì, ti ascolto, ovviamente al basso. Se metto le cuffie è meglio, però. Dai Santiago, ti posso dare 5 con picchi positivi a 7. Aiuto, dai, spegnete i baracchini che vi state disturbando, che sta piovendo. Spegnete i baracchini, su dai, tu il primo, io Natalino. Dai, siamo a Gorita, taglio cavolante, ne parli con Mulo, dai. Ciao Luca. Che farà bravo Luca? Cata, cosa vuoi che ci telefoni stanotte alle 2 e non ti faccio dormire? Hai capito che fai tanto come mi ha messo malissimo, puto coglione, hai capito? Ma stanotte non dormi, alle 2 ti telefono e così impari. Sto mangiando a pranzo, basta il cicci, sto scoppiettando, non vinne, non ce n'è. E qua, bobo. Luca, ma è un proscione. No, vabbè, Luca, mi ascolta. Sadia, se sono professionale io tu da sì, Platinetti. Santiago, no, va picchi 9-10, sei qua. E anche a me. Ciao, bello bene. Ti ascolto, non so se mi ascolti tu a me, boh. Forse è basso, sicuramente, se no c'è l'interna. E no, ce l'ho l'interna, proprio. Ah, c'è l'interna, tipo tappa. Tappa c'è sul cazzo del radio, porca puttana. Ho detto, ce l'hai interna, tipo tappa. Sì, nel buco del culo. Ma vaffanculo, va. È una scena, siete, bubù. Sì, perché è troppo nudo, vive con tizia a Milano. Bubù. Allora, io chiedo il permesso di uscire dalla frequenza per sono già di Naigoni, e siccome sono una persona per bene, me ne esco. Luca! Sì, dai, mi sto cambiando, tra un po' devo uscire. Che devo sostituire un amico che devo fare il karaoke stasera, non uscire in locale. Oh Luca, ma che cazzo c'è questa popolazione di Metallica, porca puttana? Metallica? Non ho mai detto niente a nessuno, se mi stai dicendo che è Metallica. Porca puttana, sempre il telefono, vabbè. Oh, Metallica è... vediamo un po', forse perché siamo troppo vicini, non lo so. Ah, Tonino. Io ti sento bene, perfetto. E l'effetto che fa le mie BQ4 è a via. Ma c'è una cosa strana, andiamo a fare strano, o sono io che ho il... che non ho le... Stiamo a fare la penetranza, ma bastarda proprio, quello è proprio bastarda. Addirittura. Ti sei fatto due microfoni, ti sei arrivato da Natalino, e non chi sempre, ancora vivo, ancora non è morto. Hai fatto tu questo microfono. È una panica che sto usando il 3009. Come qua c'è un Natalino, che c'ha, che non funziona. Lei che va giù chissà cosa. Vabbè, aspetta, sono agganciato, aspetta. Vaffanculo, cazzo. Aspetta. Allora adesso, boh, si è cambiato qualcosa. Non toccare nulla, non toccare nulla, che più dai partite meglio è. Io per vedere c'è un passabanda questo è un passabanda. Signor, mi dispiace che non ricevo col pezzo di filo come mi hai detto tu, non ricevo nulla, perché mi sarebbe servita un'altra antenna per qua per ricevere. Per ricevere con l'altro. Oia! Noi siamo bene qua anche a 5 metri, come ce ne frega. Ascolta, fai da bravo che hanno fatto un ripulisti lì e non c'è più nessuno. Io mi gioco da voi. Luca! Si sarà Ciambendi che deve andare a fare un karaoke, non l'hai inteso. Tony. Eia. Ah già ci sei. Certo, non fammi Davide. Se non mi interpella nessuno, mi stavo guardando un video qua, adesso. Su TikTok, è un casino qua. Sono qua, stavo per uscire, capito? Adesso vieno qua ancora. Questo qua sto facendo le seghe su Pornhub. E basta, sei gaiolo. Torino, ti ascolto benissimo, se non sono le cuffie molto puttano, perché sei già a livello di esso. Perché costretto? Ehi, Roggi, già va bene, dai. Io sono solo a Sassari, sono in campagna, quindi. E poi c'ho il palo per terra, sono 6 metri di palo e basta. Però Sassari già lo vedo in lontananza. Ma se ti riceve con un pezzo di filo, Tonica, stai andando bene. Un pezzo di filo a vero, vammi. Capita, poi sei di fronte a te, a voglia. Qui c'è già la zona un pochettino bassa, quindi. Te lo sto dicendo che c'è un pezzo di filo, come fa a uscire? Io non so come ridiscinduga, ma io c'ho un bazooka, chi lo vuole lo regalo. Anche io ce l'ho quella lì, solo che non posso piazzare niente pure, sennò disinnichi di tubo. Ho piazzato una multibanda per ascoltare, subito mi hanno detto che ero di tui bendi, avanti a giocavada e non so quello di tui bendi, cazzo, che mi serviva solo per ricevere. Ma dimmi tu, cazzo, Toni, mi hanno preso di mira qua. Se riceve solo, come ti fai di curbacca? Se mai che macchi so? Oia, Toni, cazzo, di gioco di Zendi, che avevo messo un'antenna di macchina multibanda per ricevere, Ne l'ho dovuta togliere, perché sennò dicevano che stavo disturbando. Ma dimmi tu, a pago mentre mano di chiui bacchini a giocavada, se invece ne come vedono antenne o qualcosa, subito disini chi so io, ti dici tu. Ma... Sto più buono un bacio di gorri, e vado che non ti dico i bani in più. Mi alzo, Remi, ciao Tom. Torino, dove stiamo volando, se vuoi ricordare? Zona San Camillo. Ah, becco io. Che stanno salutando, posso dire che magari se vuoi dare un QRK, ma sto poco... che sta arrivando con Guarda, sto usando un Aveno 5 ottavi d'onda e basta, palo attaccato a terra, poi terra a terra me. Quindi c'è un palazzo vicino a me che è alto, sono in condizione perché dovrei sollevare la 3 semite per andare bene, comunque già mi sento anche così, Adriano. Ottimo, sta sotto benissimo con un pezzo del filo buttato giù dal balcone. Andà bene, se sei in quella zona che so io, quindi anche troppo bene sta arrivando su del corsetto. Ecco, hai capito, ma lì che ne dite? Che fa? Facciamo l'ultima con la Meloni, il marito la Meloni. Ormai il marito non vuoi più, quindi. Avanti Tore. Sì, buonasera a tutti. Aggiunto, se ne sui peggio, basta pure un paio di corri. Ma vedi però me. Anche se non ti dice pure di corri, di sui peggio. No, vadano qua, ne ho le scatole piene. Avevo messo un'antenna di macchina fuori dalla finestra, in basso e tutto. Però non la usavo né in trasmissione, anche perché non è per qua. Era per ricevere, Catta. Mi ne esci tu che dici il babu, il giorno che ero incavolato, ne l'ho tolta e non mi ha più cercato nessuno. Ma... Ti hanno detto, tu metti un paio di corna, vedrai che le corna non gli danno fastidio a lui, a che ci si risacca 30 luci. Non so che dire, guarda, mi hanno disgustato, frutti. Ma te lo sto dicendo, tu metti un paio di corna, vedrai che lui si sente osservato. Può darsi, mica ti ha risposto il mio vicino che sta parlando con un pezzo di fila, lo senti tu? No, non lo sento. Come non lo senti? Io se ti consente lo sento, sono più lontano, tu sei mio vicino, lo so. Il suo vicino adesso. Ha detto il suo vicino, e adesso è il suo vicino. C'è un pezzo di filo già per modulare, non è antenna. Poco vi grido. Le cose glielo manda a massa. Buttato così glielo manda a massa. Non vi grido. Non ho mai sentito, io li ascolto allora. Ascoltare puoi ascoltare, ma non trasmettere perché vai a massa. Qui hai papitato un ghissumi, non hai compreso, no? Con un pezzo di filo ti sta parlando. Cazzo. E l'hai risposto pure, vuol dire che lo senti. Io sento a Tonino, non sento altri, ma ha risposto a Tonino. Aspetta, mando avanti, avanti Adrià. Vabbè, scusate, io ascolto a tutti, non mi ascoltano a me. No, Santiago Seta è qua, era dei 5. Adesso l'ho ascoltato, Santiago Seta lo stesso. Però devo, se non sta attento, gli manda a massa l'apparato, gliene manda a massa, perché l'ho già provato io e andava a massa. Quindi faccio butto un finale. Ma tu non sei lui. Ma sono lui, no? I dieci cose belle. Se non la guarda, se non l'avessi sentito io qua non ci avrei creduto che arrivavi Santiago Sette sia a Tonino che a Coso, che a Tore. La verità si dica, addirittura a Luca 9:10 li stavi arrivando, però Luca è più vicino. Chissà a Franco come gli arrivi. Vabbè, sono qualcosa di così due RP, no, a Satarrante, di ex locale, col pezzo di filo, solo per la volontà di farsi qualche piatto. Io sono il più lontano, Natalia. Infatti tu sei il più lontano di tutti. A Luca 9:10 gli arriva, gli ha dato 9:10 il controllo. Dore. Bello. Cosa ti manca? Qualche filone imbottito? No, quello non mi manca, c'ho tutto. Non mi manca niente. Mi manca solo il latte di gallina. Ma non vai la mortadella, vero? Puzzinoso? Davvero. Dore. Lasciare dai. Se vai a comprare c'è qualcosa, Peghiccio, tutto ti fa la spiaga. Non è mola, andiamo, dore. Sei una spia, questo dottore. Ma mi lo spiegassi, dottore? Ah, dove è qua? Aete, vedi ora come ti rizzeschi, come ti sacciappani. Vero, o tu sai? Una baghetta con la mortadella, cazzo acciappaetto. Tutta la frequenza non è spinato, cazzo. Ah, che non è vero, che non sono stato io. Cazzo, c'era soltanto Gianni là lì, e buh, erami io, due Gianni. Ma Gianni era anche la Nuova Sardegna, quindi. Ah, vedi, allora non sono stato io. Ma se tu lo dici nuda, la cosa rimaneva in chi, tra me e te. Vabbè, alla prossima volta vuol dire che rimango in giornale io. Alla prossima volta, se ti vengo, lo compareggio nuda. Quando sei scinto, allora lo compareggio. Fai bene. A proposito, Natali, gli vai a che muzzaro o no? A che muzzaro? È fa cosa? A che dobbiamo pigliare a che spigola? Ah, così è. Allora, a che tu ti sei detto che hanno pigliato una ricciola, un uguido, un uguidato, eh? E noi ti pigliamo una spigola. Arrumaccato però, eh. Ma la cara, tu posso con i allaggi spigoli a casa. Io sono riuscito a reggia. Se poi c'è di dopo uno da 2 metri, nasce 2,75 di spigola. A togliere una 7 metri, muro, ragazzi, non più spigola di chissà. Ma io ero mancato ando con una crecca, ando con 30 miglia attaccata là, ma non tanto nel video. Ma è per la ginocchia di fronte lì. E beh, tu muro è mio all'angolo. Che gli ho messo anche l'angoliera. Quelli che sei telefono, ciao. Ciao Tony. L'ho preso Natalì. Ehi. Quindi facciamo così, facciamo. E allora andiamo con le 100.000, non sai quanto ne pigliamo. Anche vivo con i biglietti da 100.000 vivo. E allora, io chi sei sicura, leccami. Aspetta, e qui andiamo direttamente a Rovivaio, andiamo. Ci apriamo subito, ma a misura che vuoi. E infatti, ma se avete i biglietti da Zentu e sei tranquillo. Proviamo al prossimo mese a vedere se la ci apriamo. Io ti appoggio. Dilli cosa si inviate a noi. La fregna. A noi si fa, ce l'ho fregna. E bella Tarina. Antone, c'è l'alternata. Cosa c'ho l'alternata? Adesso no. Ah, mi sembrava strano. Vabbè, che di notte esce da un po' di acqua, le c'è il metro del mattino. Ma sì, sì, Antonella, Adria. Mi sa avvicinare al microfono, tendo io buco. Adria non risponde. Ah, Natali, se si avvicina al microfono, Antonello, intendo io buco. Sì, ti si avvicina a me lo. Ci sente il fumo? No, io vengo solo fumo, vengo. Vengo segnare 9 decimi. Radio, non si tenne ne manco. Radio Nisba. Tu sei stato basso di radio, sto. Ehi. Che cazzo di... Il microfono si è aperto. Aspetta che mi metto l'altro occhio di cazzo. Fammi bene, Natale. Anche per consegnare, però. La radio fa che nulla. Sì, perché è basso di radio. Ora non ti senti, Antonè. Guarda, adesso mi senti, ecco. Ah, sì che ti intendo, ma ancora non ti intendi a nulla. Il segnale c'è, ma non senti più nulla. Il microfono sta aperto, capito? E c'ha problemi di salita. Devo mettere il CRC, smontarlo domani mattina. E così mi senti meglio. Sto usando adesso l'M95, quello palmare. Illo, anda bene. C'è anche Adriano, Antonè. Già lo sento, segnale 3 arriva qua. Con un pezzo di filo sta dicendo. Ciao frattore, ma scusi. Ehi, a te ascolto, ma come? A voi. Cosa hai rubato? L'ho sentito io di... che c'è vicino a casa. Per fare l'antenna. Non ho capito un cazzo. Ha detto si è rubato lo stenditorio che c'è vicino a casa, ha detto, per farti l'antenna. No, sto usando il mio stenditorio personale, perché devo fare quello degli altri? Di conviene salire dall'altra parte, però non lasciare la scala di lì, se no, capito, fai la fine di quell'atto tecnico che si è dimenticato la scala, ne ha trovato due. Oh sì, un benedetto. Antonello, ma poi una questione della scala, chi se l'ha rubata quella scala lì? Cosa adesso? Sei ricoglionito quello, non è colpa mia, no? Quando sono andato via io la scala c'era, anzi veniva male anche a passare la scala, chiaro sai dove sei tu. E ci dovevi saltare sopra. Poi mi telefona adesso, non la riprendo, io ero in campagna, stavo lavorando, mi fa, hai visto la scala Antonella? Io ho detto certo che l'ho vista la scala, ho detto ci sono passato a fianco quando sono andato via insieme a Antonello. Io ce l'ho, mi sono allontanato un attimino nel furgone, sono tornato indietro e non l'ho più trovata. Ho detto bravo sì, gli ho detto, sei rimambito, gli ho detto. Perché per te, gli ho detto, cosa vuoi da noi? Gli ho detto, mica ci sta la scala in macchina, gli ho detto, nel tassino. Ma sì, in effetti lui ha lasciato il motore aperto, probabilmente è stato qualcuno che l'ha costruita. Però basta, vabbè, ho parlato con l'altro trattore, perché insomma ha creato un attimo di casino, non sono cose normali, che possono dire che il condominio ha parlato male. Allora, non è stato, lui ha lasciato il motore aperto, poi tutta minchia. Almeno non gli hanno rubato un cazzo, ha fatto un furbetto, un altro, o comunque. E Antonè, da 1 a 10, quanto cazzo ce ne può fregare? Non ho capito, 9 a 10? da 1 a 10 quanto ce lo può fregare? Non me può fregare meno, la vuoi a 10? Peggio per lui che ce l'ha lasciata. No, comunque stai arrivando bene, nel punto dove sei stai arrivando veramente bene. Poi vabbè, sotto di te gli accettietto c'è, quindi se non si lamenta lui già stai andando bene. Però mi dispiace, mi dispiace. Sì, è ritornata alla 50, gliel'ho detto, che ci stai tu parlando? Ma lì allora se non fa culo, ti scusi, ti è ritornato in strada. Ma non c'è qualche camera a portare, e dove dire? Vabbè, guarda, ti ho sentito, a parte che sta per piovere, anzi, stava gocciolando per l'esattezza. Sì, vai a portare i cani, a occhio! Che fra poco c'è la messa, il castivaglio, ma domenica, occhio! Occhio, guarda che tu sei a pranzo domani, e a messa, non ci vado, che c'è un ospite a casa. Ma c'è quella gran porcona di Cristina? Chi sta là perché? Era qua poco. No, lui, gatto! Ehi, aspetta, l'hai vista Cristina, è venuta a messa a sé. Allora, dico solo che c'era il cane, il gattino che stava miagolando, mi sono affacciato e ho visto un sacco di cani, ma era il cane di Cristina, quindi suppongo che se mai il cane c'era di Cristina. Ebbene, non venivano da soli, no? Che cazzo adesso, noi facciamo una roba, un trisomo, una roba... Ah, da bravo. Gli ho detto... Dai, proponiamo a Cristina, facciamo una roba strana. Anche con Giorgio, vabbè, buon pugno, vorrei essere buco. Già vi sento io, parlate. Già va bene. Avanti, Tore. Meglio, ehi, già andava così. Potete, già se la andò a comprare a casa. Ah, già se la comprata, dopo 2 settimane, mi ha detto. È bello che era col figlio mio qui. È venuto col figlio a pensare la... ci ha fatto tutto il giro delle cose, dalla palazzina ha fatto. Poi gli ho detto, dato che ci sei, da qui non puoi mica salire, gli ho detto. Sì, ha detto, è palazzo a fianco, ha detto, ti prendi la scala e sali nel palazzo a fianco. E così ha fatto. Poi quando è sceso, si era lasciata lì e gli erano fregati. Ma in quella zona fanno così, anche il via San Donato lo vedo io. La moto la dovevo mettere proprio davanti alla porta lì. E poi ci dovevo stare anche io, se no dovevo metterla dentro casa. Perché era un casino, lì già lo sai, dove abitavo io ci abitava quello che hanno spanzato. Capito? Quindi. Andami e andami, sono tutti ladri da chi si abbassi, a te grido. Adesso non ci puoi passare in quella via, no? Nel giorno di notte, sono passato avanti ieri, sono passato, era tutto buio, si vedeva un accidente, non c'è manco illuminazione. Tu immagini che ti possono fare una rapina da un momento all'altro. In pratica poi sono andato lì alla luce, sono andato, mi sono bevuto una birra e poi sono salito a casa, capito? Sono andato da coso, già lo conosci, era Talino, a quanti anziano che ero da parecchio che non vedevo, quello che c'era la scala in legno, bella. Un attimino che vi lascio, che sono che deve sto andando al telefono. E già va bene. Cosa hai detto che non ti ho capito? Spegni quel televisore che non c'è. Oh, cosa hai detto che non ti ho capito? Non ho detto chiamato. Ho capito che c'era bianco, pensavo che avevo trovato qualcuno. Io già ci sono, già. Ok. Ma poi quel mongoloide che mette la portata c'è ancora. Non l'ho sentita la portata. Mongoloide! Ti conto, io sono entrato apposta per questa per sentirti, porca puttana, poi c'è la porta strana, questo qua per l'esatto. Oh, sta puttana, sta lì, Ehi, sei mongoloide. caso di rullo o pennelletta. Sì, ma quello li rompe a tutti. C'è l'alternativa, c'è io con un nuovo cattivale che si scopri facendosi una grande quantità di seghe invece che la portante. Ma cosa vuoi ci dica? Ma se la gente è guarda, cosa vuoi ti dica? Vuol dire ci piglia gusto a fare queste cose qua. Io speravo di fare 45 minuti. Vai, vai, già seguo io. Chiama Arvidu la roba da mangiare. Arrivato cos'è sta mica cucina? Ho cucinato un cazzo. E vabbè, ma lei l'ha portata perché io devo mangiare a quest'ora che mi devo prendere la pastiglia. Ah, avevo capito che avevo cucinato Concetta, perché già un altro minimo. Concetta grigia domani a volte si già stata la bobbica. Ma hai sentito cosa ha detto? Forse in meglio, no? Non ho sentito. Ah, Tarino, come sto scendo con 140 adesso? Guarda un po'. Bene, bene. Ok, meglio così. Adesso arrivo a 9,5, Adriano. Di qua, con 3,9 mi arriva a 6,3. Con questo arrivo a 9,5. 9,5 sta arrivando. Sentito vai, Antonello, Adriano. Sì, a voi, a me è prima. Perfetto. Vediamo il passo con le 5. Sì, già va bene, c'ho 7, quasi 8 di QRM, vabbè, già lo sai, 140 fa così. Prendo un sacco di QRM, le volte che ti ascolto. 6,95 comunque con questo. Perfetto. Andrà bene, riprenditela. Ah, come audio come sono natali come amplificazione, va bene? Lascia tutto così. Va bene, va bene, ok. Allora lascia tutto a così con le MP più 5. Un paio di coglioni, lascia tutto così un paio di palle. Oh, per la mille la radio l'ha lasciata a zero. Vengo subito. Vabbè, aspetta un attimo, mi prendo subito Natali. Pompa, pompa, cosa è stato va bene. Ma una cosa è merda, sta segnale alto la radio 2. Dai, pompa. No, non sto pompando niente. Avevi 40 watt sono sui. Appena acceso, figurati. Di più non lo tiro. L'altra volta stavo pompando, infatti si è sciolto il piede di sopra, cazzo, cioè lo spagno del piede che venne fusato da 250. Guardate qua, ci ho messo quello stagno fine, si è sciuso, si è sciolto prima giù e poi sopra. Adesso aspetto che il tempo si sistema. Salgo sopra con la scaletta, stacco il BL e lo risalgo con lo stagno nuovo, con salatore quello più grosso. Dai, il segnale è alto, molto. Prima di sette al settimo di più. La radio è 5, diciamo 4, se dà una spinta. Ehi, aspetta un attimo che mi stanno chiamando, 2 minuti. Mi piglia un attimo con la carina. Ehi, vedo, a fuori di tutto. Oh, poi io non ti ascolto più. Mi sento tutto, hai. Cosa? Ma Tomino Gassi, non so. Tomino, gli ha squillato il telefono. E gli altri non lo so che fine hanno fatto. E quello mangiava i bomboloni di crema, anche. Come si chiama? Gianni doppio ru. Non c'è, non si è fatto sentire stasera. Ma quanto sei coi? cosa hanno fatto me? Ho usato l'Ecomaster, solo che devo usarlo quasi a uno. Ehi, l'ho sentito adesso. Sapi, tutto è innescando. Adesso nell'ultima parte no. Ehi, stavo provando il Sedenta Ecomaster. È quasi a uno di amplificazione. Questo già sale lo Smith. Ho dovuto mettere il batto a 10. Se sono le 2 watt fischia come un treno, bisogna che li mettono, faccio la schermatura per forza. Anche adesso sto fischiando, lo sento. Tanto perfetto non è, è sempre di sogliere l'innesco, capito? Mamma mia, c'ho mal di testa oggi, infatti puoi sentire fischi e fiaschi, guai. Antone, sono andato a salutare più che altro. Chi altro c'è? Non c'è un'anima, ma solo sì. Ma ho bruciato tutto me. Ah, già sei fresco tu. No, c'era lì, non era carino, c'era. Io mi sono tornato un attimino per poter lanciare questo. E mi sono... No, me lo devi ficcare questo. Ma che cazzo c'è? 1, 2, 3, adesso va bene. Che c'era? Natalingua? E anche Adriano... Ma sento altri. E qualcuno mi sale di più? Ah no, ha ragione. Allora, dietro. Allora, adesso va bene. Pigliale, abbiamo parlato in 2. Adesso che c'è Natalino e anche Adriano, cioè in questo canale, capito? Adesso non sto fischiando. A quest'ora Natalino mangia, perché deve pigliare poi quelle cose sue. Uia, ero di passaggio qua, stavo andando in cucina, quel volume è al minimissimo, quindi ho sentito qualcosa, inneschi, eri tu ovviamente, e ho detto, va, l'hanno fatto, sono riconosciuto dall'innesco. Stavo usando l'Ecomaster, che ho sistemato, è troppo forte per il tempo, capito? Allora gli ho messo il nuovo MB5, invece l'altro microfono, l'altro c'ha problemi di svile, evidentemente non so cosa ne abbia preso, il lato saletta. Comunque Antone, hai una modulazione un po' risicata, devo alzare il volume, però fregatene, alzo il volume, però caspita, dovresti uscire molto più pompato, però vabbè, se lì si alza innesca, vabbè. Perché basta l'amplificazione, aspetta un attimo, se scendo così le volte dovresti sentirmi più forte. Meglio, cosa hai fatto? Hai abbassato i watt? Ehi, ho abbassato i watt. Sì, se probabilmente ti mangia la radio mettendo più watt. Ti mangia la radio, notevole. Così è già più chiara, cioè più forte anche. Già va bene, già va bene. Importante che funzioni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ora, esattificato. Chiappa, chiappa, mamma mia, adesso mi faccio un caffè, chissà che mi passi un mal di testa anche. Col caffè proprio no, anzi, ti solleva la pressione e lo senti di più mal di testa. Ah, aspetta che c'è un dubbio, io ho usato stasera un farmaco per... quando c'è il naso chiuso, no? È un vasodilatatore. Caso strano mal di testa, però alza la pressione, caso strano c'ho mal di testa stasera, leggero, però martellante, capito? Ah, ho capito. Già va bene. cazzo mi raggia Giulio, dimmi Giulio, mi ascolto di... A voglia, passa il 27, dai Giulio, siamo, sono con Marco Condor. Ah, i PMR siete, e qua non, niente antenne, niente ricezione, niente di niente, meglio così, c'ho sempre quel piccolo veicolare, non so cosa farne. A chi lo posso regalare? Chi è? Tonino, tu sei? Chi ha parlato? Avanti. Non lo so chi era, boh. Non me, boh. Lo voglio dire. Io il mio coso, quel baracchino piccolino, l'avevo regalato a cosa? A Taxillello l'ho regalato, insieme all'antenna canale a pesca, è il capo. Cazzo, mi ha fatto diventare esaurito quel baracchino. Quando l'ho comprato, mai l'avessi fatto, guarda, in tempo di Covid. 50 euro di listino, quando è arrivato qui mi è arrivato 70, 22 euro di... me lo ricordo ancora, qua. Qua a parlare, sembrava un coso, un eremita sembrava. Ho dovuto cambiare il microfono, ho dovuto mettere il microfono dell'Endicom 40S, era l'unico che funzionava. Bene. Ah, il microfono Lenny con 40 e sta giù con peggio. E quindi Antone, ma tu poi non ti hai preso niente, mezzi di trasporto, di locomozione, niente. Che, ti ricordi, me lo dicevi anni fa, o lo scooter o cos'era, quello a tre ruote. L'ho già preso, quattro ruote, 150 euro tre settimane fa. Quello quattro ruote, bello, con sedile, vabbè l'ascensore non c'entra cazzo, perché è più largo dell'ingresso dell'ascensore, figurati. Invece quello che c'ha Giampiero, quello entra tranquillamente in ascensore. E dove lo lasci? Non c'è più il parcheggio, il garage, no? No, il garage l'ho affittato. E nel garage di Giovanna l'ho messo. Devo cambiare le batterie. Se indovini quanto costano? Allora, che batterie monta? Cosa sono prima di tutto? 12 volt o 24 o di più? 12 volt, 80 ampere, anzi 60 quelle di Giampiero per esattezza, però quello che è montata la mia è 80 ampere. Sono al gel e ne monta due, da 2 da 12 e sono 24 volt. Prezzo scontato col... per i disabili 500 euro, 4,95 per esattezza. Il cacchio, ma allora non sono batterie normali, che cacchio di batterie sono? Al grafene, che roba è? Roba futuristica. No, no, sono batterie al gel. Tu ce l'hai presente la batteria della macchina? È quasi uguale. Solo che se la prendi in mano, sei tranquillo che te ne scende la massa, perché solo una batteria pesa intorno ai 20-25 kg. Ah, io già la prendo in mano. Quando vieni qui te la faccio prendere in mano la batteria, ti faccio vedere, così sollevi la batteria e mi dici se questa pure no. Ho chiesto a un amico se si potevano utilizzare per il fotovoltaico, come ha detto di sì, quindi forse riesco a riutilizzarle, capito? Quelle di Giampiero, quelle mie non lo so. Le va solo mettere in carica questi giorni qui, le va agganciare alla macchinetta e mettere in carica con carica batterie che dà 24 volt e vediamo quanta tensione mi dà, se perché sono batterie al gel, capito? Quindi non so quanti anni durano, la verità questo non lo so, però pesano, cazzo, quando ci ho tirato quella macchina dentro l'Apollo, è scesa la mazza, a me Giovanna, allora ho dovuto riscendere laggiù, togliere le batterie e sono riuscito a farci infilare dentro e chiudere il cofano. Sì, saranno quelle batterie piombo gel, capito? Va bene. E quello dove l'hai trovato? Da Portobello, roba del genere? Il mezzo usato? Da Portobello, simile a quella, ce n'è una 1100 euro. C'ha il cestino davanti, capito? Io l'ho pagata 150 euro, l'ho pagata. Perché un amico, capito? Ne ha tre di queste cose. Quella che ho preso io è la più grande. Poi ne aveva due che sono un pochettino più piccole e entrano dentro l'ascensore. Capito? Si può mettere anche dentro il cofano della macchina e c'entra giusta. Sì, quelle se le compri nuove. E le paghi te le fanno pagare anche 2-3 mila euro forse di più, dipende da chi le prende. Naturalmente la batteria quando te la danno è nuova, la batteria di serie è nuova e quindi